Sottotiro. Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sapete, uno dei settori più delicati per la pervasività e penetrazione, ormai possiamo parlare di pervasività delle mafie, è quello delle energie, segnatamente quello delle energie rinnovabili. Quindi parliamo tanto di eolico quanto di fotovoltaico. Uno dei territori più sensibili alle infiltrazioni mafiose è il sud, innanzitutto la Puglia, ma poi anche la Calabria, la Campania parzialmente, soprattutto nella zona del Beneventano, e la Sicilia. Ebbene, la Sicilia recentemente ha siglato un protocollo di legalità tra Confindustria Sicilia, Ministero dell'Interno e Assessorato all'Energia. Facilitati anche dal fatto che l'assessore regionale all'energia in Sicilia è l'ex prefetto di Palermo, Giosuè Marino, colui il quale è stato anche per anni a capo della struttura anti-racket del Viminale. Quindi, diciamo così, una persona che ha una sensibilità alla legalità ovviamente straordinaria. Buongiorno, assessore Marino. Buongiorno. Ci illustri l'importanza di questo protocollo di legalità? Sì, l'intento è assolutamente quello di blindare questo settore rispetto a infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso, ma anche evitare l'inquinamento di un settore portante dell'economia siciliana che è al centro dell'attenzione di gruppi speculativi privati. Il protocollo, come lei sottolineava, vede insieme il Ministero dell'Interno, i prefetti della Sicilia, l'assessorato che io dirigo e naturalmente Confindustria, quest'ultima nel solco di quell'impegno straordinario che Ivan Lobello ha portato avanti in tutto questo periodo. Certo, ecco. In realtà il protocollo sostanzialmente ha lo scopo di evitare o comunque scongiurare l'ipotesi di inserimenti di infiltrazioni della criminalità mafiosa, pone la necessità per qualsiasi propedeuticamente rilascio di provvedimenti autorizzatori di impianti, dell'acquisizione di informazioni antimafie e anche per impianti di importo limitato, perché certo, si vede, certo. È stabilito sostanzialmente che queste informative vengano richieste a partire da valori di 155.000 euro circa, quindi siamo certo davvero anche ai mini impianti. Ecco, io vorrei chiederle questo, assessore. Un aspetto delicato poi è quello dei controlli, no? Perché la prevenzione sicuramente è anche purtroppo possibile scavalcarla, dribblarla, soprattutto sui certificati antimafia, perché spesso si fa ricorso ovviamente a prestanome, a teste di legno. Ecco, dal punto di vista dei controlli, avete previsto qualcosa? Sì, abbiamo previsto naturalmente di organizzare già nell'ambito stesso della struttura regionale delle forme di controllo, ma al di là di questo abbiamo siglato nei mesi scorsi un protocollo con la Guardia di Finanza che nell'ambito delle competenze che le sono proprie potrà svolgere degli accertamenti, delle verifiche su quei provvedimenti autorizzativi di impianti che noi sostanzialmente mettiamo a conoscenza appunto della stessa Guardia di Finanza. In buona sostanza l'intera produzione provvedimentale dell'assessorato passa a conoscenza della Guardia di Finanza, che poi sulla base appunto delle proprie competenze, degli aspetti di interesse, dei profili di interesse, fa delle verifiche e laddove emergano dei fatti ovviamente ostensibili, ma che abbiano la possibilità di portare l'amministrazione a una rivalutazione del provvedimento, certo, ce ne mette a conoscenza. Quindi, come vede, è tutto un insieme di provvedimenti. È un circuito, diciamo. Esatto, è un sistema complessivo di una logica di attenzione forte a questo settore che io ho voluto predisporre e che mi auguro possa sortire effetti quali sono quelli che io cerco di perseguire. Assolutamente sì, anche perché purtroppo, ahimè, ultimamente in Sicilia gli scandali da questo punto di vista non sono mancati, e hanno coinvolto anche politici, purtroppo. Poi un altro aspetto che è contenuto nel protocollo è altrettanto importante, perché la regione assume l'obbligo, appena il rilascio, il non rilascio del provvedimento, di far sì che le società assumono una serie di obblighi, per esempio di non offrire o accettare o richiedere somme di denaro come ricompensa, come protezione o come estorsione, certo, di acquisire le informazioni sulle imprese che siano chiamate come appalti di beni o servizi per la realizzazione dell'impianto. Insomma, è una catena, diciamo così, di controlli, esatto, e di legalità. Un altro aspetto molto importante è anche la tracciabilità, cioè viene posta la obbligatorietà per chi è destinatario dell'autorizzazione di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie di ammontare superiore ai 2.000 euro esclusivamente per il tramite di istituti di credito posti italiani, in modo da avere una possibilità di seguire, di poter seguire i soldi. Questa è una cosa straordinariamente importante. Io ringrazio l'assessore della regione Sicilia, Giosuè Marino, assessore all'energia, per questa chiacchierata. Grazie a Paolo Corleoni in regia, Laura Fagino in studio, Roberto Carullo vi auguro una buona giornata.